Capitolo 28. Venne l'ultimo giorno di scuola e passò. Ebbe trionfalmente luogo un esame di metà anno e gli allievi di Anna lo superarono splendidamente. Alla chiusura le fecero un discorso e le regalarono una piccola scrivania. Tutte le ragazze e le signore presenti piansero e in seguito qualcuno insinuò che alcuni ragazzi avessero fatto lo stesso, anche se i suddetti lo negarono sempre. La signorina Andrew, la signora Sloane e la signora Bell tornarono a casa insieme chiacchierando. Credo che sia davvero un peccato che Anna se ne vada, quando i ragazzi sembrano così attaccati a lei, sospirò la signora Sloane, che per abitudine sospirava di tutto e concludeva in quel modo perfino una facezia. Certo, aggiunse in fretta, sappiamo tutte che avranno una buona insegnante l'anno prossimo. Jane farà il suo dovere, non ne dubito, disse alquanto seccata la signora Andrew. E immagino che non racconterà tante favole ai bambini, né passerà tutto quel tempo con loro a vagabondare per i boschi. Ma il suo nome è stato scritto all'albo d'onore dell'ispettore e l'agente di Newbridge è in uno stato di grande agitazione a causa della sua presenza. Sono davvero contenta che Anna vada all'università, aggiunse la signora Bell. L'ha sempre desiderato e sarà una cosa magnifica per lei. Beh, non lo so. La signora Andrews era decisa a non dichiararsi d'accordo con nessuno quel giorno. Non vedo perché Anna abbia bisogno di continuare gli studi. Sposerà probabilmente Gilbert Blythe, se l'infatuazione per lei gli durerà per tutti gli anni dell'università, e a che serviranno allora il latino e il greco? Se all'università insegnassero come ci si comporta con un uomo, andarci avrebbe un senso. La signora Andrew, così almeno si mormorava ad Avon Lee, non aveva mai imparato come comportarsi con il suo uomo e di conseguenza la famiglia Andrew non era esattamente un modello di felicità domestica. Ho sentito che la chiamata del signor Hallan a Charlottetown è stata presentata al consiglio presbiteriale, disse la signora Bell, il che vuol dire che ben presto lo perderemo. Oh, non andranno via prima di settembre. Asserì la signora Sloane, sarà una gran perdita per la nostra comunità, anche se ho sempre pensato che la signora Allan vestiva in modo un po' troppo frivolo per essere la moglie di un pastore. Ma nessuno è perfetto. Avete notato com'era elegante il signor Harrison oggi? Mai visto un uomo così cambiato. Va in chiesa ogni domenica e ha aderito alla sottoscrizione per il pastore. E dite un po', non avete visto com'è cresciuto quel Paul Irving? Disse la signora Andrew. Sembrava così piccino per la sua età quando venne qui. Dichiaro che oggi a malapena lo riconoscevo. Comincia ad assomigliare parecchio a suo padre. È un ragazzo molto intelligente, disse la signora Bell. Per essere intelligente è intelligente, ma... E qui la signora Andrew abbassò la voce. Credo che racconti strane storie. Gracie, la settimana scorsa, un giorno è tornata a casa da scuola facendo dei discorsi senza capo né coda. Lui le aveva raccontato di certa gente che viveva laggiù sulla spiaggia, storie che non hanno un briciolo di verità, sapete? Ho detto a Gracie di non credere che fossero vere, e lei mi ha risposto che Paul gliele aveva gabellate per vere, e allora dico io perché gliele ha raccontate. Anna dice che Paul è un genio, intervenne la signora Sloane. Può darsi, non si sa mai cosa aspettarsi da questi americani, disse la signora Andrew. L'unica familiarità che la signora Andrew aveva con la parola genio derivava dall'espressione della lingua parlata, geniaccio, intesa a indicare una particolare qualità di un tipo fuori dal comune. Probabilmente, come Mary Jo, pensava che volesse dire una persona con il cervello non completamente a posto. Tornata in classe, Anna sedeva sola alla cattedra, come 2 anni prima, il primo giorno di scuola, con il mento appoggiato alla mano. Gli occhi umidi che guardavano oltre il lago lucente. Aveva il cuore così stretto per il distacco dagli allievi che per il momento l'università aveva perduto tutto il suo fascino. Sentiva ancora attorno al collo la stretta delle braccine di Annetta Bell e udiva il suo lamento infantile. Non amerò mai più un insegnante come amo lei, signorina Shirley, mai, mai. Per 2 anni aveva lavorato con serietà e con impegno, facendo molti sbagli, ma mettendoli a frutto. Era stata ricompensata. Aveva insegnato qualcosa ai suoi scolari, ma sentiva che essi le avevano insegnato molto di più. Tenerezza, autocontrollo, innocente saggezza, la sapienza dei loro cuori fanciulli. Forse non era riuscita a instillare grandi ambizioni nei suoi allievi, ma aveva insegnato loro, più con la dolcezza della personalità che con le parole, che era giusto e necessario, negli anni a venire, vivere la propria vita con dignità e con grazia, attenendosi ai valori della verità, della cortesia, della gentilezza, e stando lontano da tutto quanto era falso, meschino e volgare. Forse nemmeno si rendevano conto di aver appreso queste lezioni, ma l'avrebbero ricordato e messo in pratica anche dopo aver dimenticato la capitale dell'Afghanistan e le date della guerra delle due rose. Un altro capitolo della mia vita si chiude, disse Anna ad alta voce, mentre chiudeva a chiave la scrivania. Provava veramente una grande tristezza, ma quell'idea romantica del capitolo chiuso la confortò alquanto. Agli inizi della vacanza, Anna trascorse una settimana alla casa dell'Eco e tutte le persone interessate si divertirono molto. Condusse la signorina Lavendar a fare commissioni in città e la convinse a comprarsi un nuovo abito di organza. Poi, venne il momento emozionante di tagliarlo e cucirlo, mentre Carlotta IV, felice, era addetta alle imbastiture e a spazzare i ritagli. La signorina Lavendar si era lamentata di non aver più interesse nelle cose, ma nel vedere quel bel vestito gli occhi le scintillarono di nuovo. Oh, quanto sono frivola e sciocca! Sospirò. Mi vergogno a pensare che un vestito nuovo, anche se si tratta di organza del colore non ti scordar di me, mi mette tanto di buon umore, mentre non bastano a farlo né la coscienza tranquilla né un contributo eccezionale alla società per le missioni. Durante il suo soggiorno, Anna andò a casa a Green Gables per una giornata, per rammendare le calze dei gemelli e per dare una risposta alle inesauribili domande di Davy. La sera scese verso la strada a mare per vedere Paul Irving. Mentre passava davanti alla finestra bassa e quadrata del salotto degli Irving, vide, con la coda dell'occhio, Paul in braccio a qualcuno, ma un attimo dopo egli venne di volo verso l'ingresso. «Oh, signorina Shirley!» gridò tutto eccitato. «Pensi cos'è accaduto! Qualcosa di magnifico! È arrivato mio padre! Pensi, è arrivato mio padre! Entri, entri! Babbo, questa è la mia maestra!» Steven Irving si fece incontro ad Anna con un sorriso. Era un bell'uomo, alto, di mezza età, con i capelli grigi e gli occhi infossati di un azzurro intenso. Un viso forte, triste, dai lineamenti perfetti. Il viso di un eroe da romanzo, pensò Anna con fremito di soddisfazione. Sarebbe stato deludente conoscere l'eroe di un romanzo e trovarlo stempiato, curvo o comunque privo di virile bellezza. Anna ci sarebbe rimasta male se l'oggetto dell'amore della signorina Lavendar non fosse stato all'altezza del suo ruolo. Oh, ecco dunque la bella maestra di mio figlio, della quale ho sentito tanto parlare, esclamò il signor Irving dandole una cordiale stretta di mano. Le lettere di Paul non parlavano che di lei, signorina Shirley, tanto che mi sembra già di conoscerla. Desidero ringraziarla per tutto quello che ha fatto per Paul. Credo che la sua influenza abbia risposto perfettamente ai suoi bisogni. La nonna è la migliore, la più cara delle donne, ma con il suo saldo buonsenso scozzese non sarebbe stata sempre in grado di capire un temperamento fantasioso come quello del mio ragazzo. Lei ha supplito a quanto le mancava. Grazie a tutte e due, credo che l'educazione di Paul negli ultimi 2 anni si sia avvicinata all'ideale più di quanto avviene di solito quando si è orfani di madre. Gli apprezzamenti fanno sempre piacere. Così, alle lodi del signor Irving, il volto di Anna sbocciò come un fiore in un roseo germoglio. E quell'uomo stanco e affaticato, guardandola, pensò di non aver mai visto una giovinetta più bella e più dolce di questa piccola maestra dai capelli rossi. Paul sedeva felice in mezzo a loro. Non pensavo nemmeno che il babbo arrivasse, disse raggiante. Neanche la nonna lo sapeva. È stata una sorpresa. In genere, Paul scosse gravemente i riccioli bruni, non mi piacciono le sorprese. Con le sorprese si perde tutto il piacere di aspettare le cose. Ma in un caso come questo le sorprese vanno benissimo. Mio padre è arrivato ieri sera, dopo che io ero andato a letto. La nonna e Mary Jo sono rimaste sbalordite. Poi lui e la nonna sono saliti in camera a guardarmi con l'intenzione di non svegliarmi fino al mattino, ma io mi sono svegliato, ho visto il babbo e gli sono balzato subito al collo. E mi ha abbracciato forte, forte, aggiunse il signor Irving passando il braccio attorno alla spalla di Paul. Quasi quasi non lo riconoscevo più il mio ragazzo, è diventato così alto e robusto. Non so chi fosse più felice di vedere il babbo, se la nonna o io, continuò Paul. La nonna è stata in cucina tutto il giorno a preparare i piatti che piacciono al babbo. Ma ora devo lasciarvi soli un momento, se volete scusarmi, devo andare a ricondurre le mucche nella stalla per Mary Jo, lo sapete, è una delle mie tante incombenze. Dopo che Paul fu corso via per attendere alla sua incombenza, il signor Irving parlò con Anna di svariati argomenti, ma Anna sentiva che pensava ad altro e finalmente quel pensiero nascosto venne a galla. Nell'ultima lettera Paul mi diceva di essere andato con lei a fare visita a una mia vecchia amica, la signorina Lewis. La conosce bene? Sì, è una mia carissima amica, rispose Anna, che non lasciava trasparire l'improvvisa emozione che l'aveva colta alla domanda del signor Irving. L'istinto avvertiva Anna che una storia d'amore era dietro l'angolo. Il signor Irving si alzò e andò alla finestra. Guardava fuori un gran mare dorato, gonfio di marosi, dove il vento suonava l'arpa. Per alcuni minuti vi fu silenzio nella piccola stanza dai muri scuri. Poi egli si volse e guardò fisso in viso la comprensiva Anna con un sorriso tra il tenero e il bizzarro. «Mi chiedo quante cose sappia lei», disse. «So tutta la storia», replicò Anna pronta. «Vede», spiegò in fretta, «la signorina Lavendar e io siamo molto amiche. Non rivelerebbe cose di natura così intima a nessuno. Noi siamo spiriti affini». «Sì, lo credo bene». E allora, ascolti, vorrei chiederle un favore. Mi farebbe piacere andare a trovare la signorina Lavendar, se lei acconsente. Vuole chiederle se posso andare? E come avrebbe potuto non chiederglielo? Certo che glielo avrebbe chiesto. Sì, questo era proprio amore, una bella, fantastica storia d'amore, piena di fascino, di sogno e di poesia. Un po' tardiva, forse, come una rosa che fiorisce in ottobre e invece avrebbe dovuto sbocciare in giugno, ma pur sempre una rosa, tutta fragranza e dolcezza, e il bagliore dell'oro nel cuore. Mai i piedi di Anna si erano prestati con più gioia a una commissione, come fecero l'indomani durante quella passeggiata attraverso le faggete fino alla casa dell'Eco. Trovò la signorina Lavendar in giardino. Anna era molto eccitata. Signorina Lavendar, disse, ho qualcosa da confidarle, qualcosa di molto importante. Indovini un po' di che si tratta. Ad Anna non era neppure venuto in mente che la signora potesse indovinare, ma suo volto si fece pallidissimo e la signorina Lavendar disse con voce stranamente quieta, da cui erano scomparsi ogni vivacità e ogni colore: Stephen Irving è tornato a casa. Come ha fatto a saperlo? Chi glielo ha detto? Gridò Anna, delusa e irritata perché la sua grande rivelazione era stata anticipata. Nessuno. Lo sapevo che doveva trattarsi di questo. Lo sapevo anche solo a sentirti parlare. Vuole venirla a trovare? Incalzò Anna. Posso mandargli a dire che lei acconsente? Oh, sì, certo, rispose tutta confusa la signorina Lavendar. Non c'è alcun motivo perché non debba venire. È un vecchio amico. Anna aveva la sua personale opinione a questo proposito, mentre si affrettava a entrare in casa per scrivere un biglietto sulla scrivania della signorina Lavendar. Oh, com'è bello vivere in un libro di fiabe, pensò allegramente. Tutto finirà bene, è chiaro, deve finire bene. Paul avrà una mamma come quella che il suo cuore desidera e tutti saranno felici. Ma il signor Irving porterà via la signora Lavendar e sa Dio cosa accadrà alla piccola casa di pietra. La faccenda ha due aspetti, come sempre in tutte le cose di questo mondo. Quel biglietto tanto importante fu scritto e Anna in persona lo portò all'ufficio postale di Grafton. Qui attese al varco il postino e lo pregò di lasciarlo all'ufficio postale di Avonlea. È molto importante, insisté Anna. Il postino era un vecchietto burbero che non aveva affatto l'aria del messaggero di Cupido. Anna non era nemmeno sicura di potersi fidare della sua memoria, ma egli disse che avrebbe fatto del suo meglio e la ragazza dovette accontentarsi della sua parola. Carlotta IV sentiva che in quel pomeriggio la casa di pietra era piena di mistero, un mistero dal quale ella era esclusa. La signorina Lavendar vagabondava per il giardino con aria distratta. Anche Anna pareva posseduta dal demone dell'irrequietezza e camminava avanti e indietro, su e giù. Carlotta sopportò a lungo finché perse la pazienza. Allora affrontò Anna mentre per la terza volta rientrava senza scopo in cucina. «Per favore, signorina Shirley!» disse Carlotta IV, scuotendo indignati i nastri azzurri delle trecce. «Si vede lontano un miglio che lei e la signorina Lavender avete un segreto. Chiedo scusa della sfacciataggine, ma credo, signorina Shirley, credo che sia una cattiveria non dirmelo, dal momento che siamo tanto amiche.» «Oh, Carlotta, te l'avrei detto se fosse un segreto mio, ma è un segreto della signorina Lavender, capisci? Comunque ti dirò almeno questo. E se non ne viene fuori nulla, non devi farne parola ad anima viva. Vedi, stasera arriva il principe azzurro. Era già venuto parecchio tempo fa, ma poi se ne andò, peregrinò lontano, dimenticò il segreto del magico sentiero che portava al castello incantato, dove la principessa piangeva per lui tutte le lacrime del suo cuore fedele. Ma alla fine se ne ricordò e la principessa lo sta ancora aspettando, perché nessuno, eccetto il suo caro principe, avrebbe potuto portarla via. Oh, signorina Shirley, che cosa vuoi dire con questo in parole povere? Annaspò Carlotta disorientata. Anna sorrise. Vuol dire, in parole povere, che un vecchio amico della signorina stasera viene a trovarla. Oh, vuol dire un suo vecchio spasimante? Insistette Carlotta. Sì. Forse è proprio questo che voglio dire, concluse Anna. Si tratta del padre di Paul, di Steven Irving, e Dio sa cosa ne verrà fuori, ma speriamo per il meglio, Carlotta. Io spero che la sposi, esclamò Carlotta. Certe donne sono destinate a essere zitelle e io temo di essere una di loro, signorina Shirley, ma questo non è il caso della signorina Lavendar. E pensare che mi ero preoccupata, pensando a quel che avrebbe fatto quando, divenuta grande, sarei dovuta andare a Boston. Nella mia famiglia di ragazze non ce ne sono più. Come avrebbe fatto la signorina a sopportare una sconosciuta che magari avrebbe riso delle sue finzioni e delle sue stranezze? Certo, avrebbe potuto trovare qualcuna che non rompe piatti, ma non troverà mai una che le voglia bene come gliene voglio io. E la piccola, fedele Carlotta si precipitò verso lo sportello del forno tirando su con il naso. Quella sera, alla casa dell'Eco, si procedette come di consueto alla cerimonia del tè, ma in realtà nessuno mangiò. Dopo il tè, la signorina Lavendar si recò nella stanza e indossò il nuovo abito di organza color non ti scordar di me. Poi Anna la pettinò. Entrambe erano molto agitate, ma la signorina Lavendar fingeva di essere calmissima e indifferente. «Domani, devo rammendare quello strappo nella tenda», disse con aria ansiosa, esaminandola come se fosse l'unica cosa che importava in quel momento. Quelle tende non hanno fatto una buona riuscita, se considero quanto le ho pagate. Oh, povera me! Carlotta ha di nuovo dimenticato di spolverare la ringhiera della scala. Dovrò dirle due paroline. Quando Steven Irving discese lungo il viale e attraversò il giardino, Anna era seduta sui gradini del portico. Questo è l'unico luogo dove sembra che il tempo si sia fermato, disse guardandosi attorno con uno sguardo beato. Non c'è nulla di cambiato nella casa o nel giardino da quando sono venuto qui l'ultima volta, 25 anni fa. Mi fa sentire di nuovo giovane. Lei lo sa bene che il tempo si ferma sempre in un palazzo incantato, disse Anna seria. Soltanto quando arriva il principe le cose ricominciano a vivere. Il signor Irving sorrise con mestizia a quel volto giovane che brillava di promesse. Talvolta il principe arriva troppo tardi, mormorò. Né chiese ad Anna di tradurre in parole povere la sua osservazione, come tutti gli spiriti affini, egli capiva. Oh, no, no, non è mai troppo tardi se lui è il vero principe e se lei è la sua vera principessa, disse Anna, scuotendo con decisione la testa fulva mentre apriva la porta del salotto. Quando egli fu entrato, la richiuse con cura alle spalle e, voltandosi, si ritrovò faccia a faccia con Carlotta IV, che era nell'ingresso, tutta cenni del capo e delle mani e tutta sorrisi. «Oh, signorina Shirley!» ansimò. «Ho spiato dalla finestra della cucina ed è proprio bello! Ha l'età giusta per la signorina Lavendar! Senta, signorina Shirley, crede che farei male se stessi a origliare alla porta?» faresti malissimo, Carlotta, disse Anna con decisione. Perciò è meglio che tu venga con me e sfugga alla tentazione. Non riesco a far nulla ed è brutto starsene così con le mani in mano ad aspettare, sospirò Carlotta. E se non le fa la dichiarazione? Non si può mai essere sicuri con gli uomini. Mia sorella maggiore, Carlotta prima, una volta era convintissima di essere fidanzata con un tale. Poi si scoprì che lui era di avviso contrario. Conclusione, lei afferma che non si fiderà mai più di un uomo. Ho sentito anche di un altro caso, un tale che era persuaso di avere perduto la testa per una certa ragazza e invece era innamorato pazzo della sorella. Ora, se l'uomo non sa lui stesso cosa vuole, come può farlo sapere a una povera donna? Andiamo a lucidare in cucina i cucchiai d'argento, ordinò Anna. È un'operazione che non richiede un grande sforzo di testa, fortunatamente, perché stasera non sono proprio in grado di pensare. Ci aiuterà a passare il tempo. Passò un'ora. Poi, mentre Anna deponeva sul tavolo l'ultimo sfolgorante cucchiaino, si udì chiudersi la porta d'ingresso. Entrambe, intimorite, si guardarono negli occhi. Oh, signorina Shirley, mormorò Carlotta, se ne va via così presto. Volarono alla finestra. Il signor Irving non aveva alcuna intenzione di andarsene. Lui e la signorina Lavendar passeggiavano lungo il sentiero centrale, quello che conduceva alla panchina di pietra. Oh, signorina Shirley, le ha passato un braccio intorno alla vita! Bisbigliò Carlotta, quarta in estasi. Deve essersi dichiarato, altrimenti lei non glielo avrebbe mai permesso. Anna afferrò Carlotta, quarta per la vita, e danzò con lei in mezzo alla cucina finché mancò loro il respiro. Oh, Carlotta! Gridò tutta allegra. Non sono una profetessa, ma voglio fare una predizione. Prima che le foglie d'acero diventino rosse, ci sarà un matrimonio nella vecchia casa di pietra. Ti sembra troppo poetico? Vuoi che te lo ripeta in parole povere? No, no, questo lo capisco, rispose Carlotta. Ma che c'è di poetico in un matrimonio? Oh, signorina Shirley, ma lei sta piangendo. Perché mai? Perché tutto è così bello, come una fiaba. Ed è così romantico, disse Anna asciugandosi gli occhi. È tutto tanto incantevole, eppure vi è mescolata anche una punta di tristezza. Oh, certo, sposarsi è comunque un rischio, ammise Carlotta quarta. Ma tutto considerato, signorina Shirley, ci sono cose ben peggiori di un marito a questo mondo.